sei la mia Lilith. Smetto di cercarti, noi non saremo amici, perché più dici ti amo e più continuerò a tradirti. Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti, vai con altri maschi, sei convinta di ferirmi. Tu sei Lilith, non vuoi manco più sentirmi. Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini. Mi cancelli da IG, ti disegni le lenticini. Bruttissimi litigi, ne dimentico le origini. Tu mi odi, io lo sento che mi odi. Tingo i miei umori dei fuochi con cui ti ustioni. Penso solo a me stesso, non so darti attenzioni. Mi parli dei tuoi problemi, non so darti soluzioni. E ti affidi alle pozioni, vieni sempre nelle stesse posizioni. Ti affezioni nonostante conosci le mie intenzioni. Una sola anima in pena, cambiano le confezioni. Due bambini con i traumi, cambiano le situazioni. Tutte ste relazioni mi sanno di asfissia. La nostra storia che diventa un'elegia. C'è chi insegue e chi respinge, non è solo una teoria. Dopo l'orgasmo tutta la magia va via. La mia Lilith, smetto di cercarti, noi non saremo amici, perché più dici ti amo e più continuerò a tradirti. Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti, vai con altri maschi, sei convinta di ferirmi. Tu sei Lilith, non vuoi manco più sentirmi. Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini. Mi cancelli da IG, ti disegni le lenticini. Bruttissimi litigi, ne dimentico le origini. Cancelli sex tape, hai paura del revenge. Ti senti una strega, tu sei Bellatrix Lestrange. Tu sei Janet Leigh, io mi sento Norman Bates. Vuoi una star come MJ, e un gangsta come CJ. Qua cambierà la musica, l'impianto, il DJ. Non capisci cosa ho dentro, manco con gli X-Ray. Invece tu mainframe, per me che sono Bill Gates. Sognavi un rapper in main stage, ma casa sembra Carnage. Mi blocchi dappertutto, ci sentiamo per email. Vorrei essere famoso per intasarti l'home page. Dal risentimento, esaurimento, vai il tuo range. Cambierei i soldi in amore, se solo esistesse il change. Smetto di cercarti, noi non saremo amici, perché più dici ti amo e più continuerò a tradirti. Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti, vai con altri maschi, sei convinta di ferirmi. Tu sei Lilith, non vuoi manco più sentirmi. Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini. Mi cancelli da IG, ti disegni le lenticini. Bruttissimi litigi, ne dimentico le origini. Sei dolore senza limiti, zodiaci di lividi. La stanza degli spiriti, la danza delle silfidi. L'affetto di miseri, le fiamme degli inferi. Il canto delle sirene nei tuoi occhi limpidi. Sei la mia Lilith, smetto di cercarti, noi non saremo amici, perché più dici ti amo e più continuerò a tradirti. Poi quando mi scopri accorci tutti i tuoi vestiti, vai con altri maschi, sei convinta di ferirmi. Tu sei Lilith, non vuoi manco più sentirmi. Amore nel bicchiere fa sentire le vertigini. Mi cancelli da IG, ti disegni le lenticini. Bruttissimi litigi, ne dimentichi.